Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo parlato di inverter in passato, come di quei dispositivi che consentono di regolare la velocità dei motori elettrici, permettendo in questo modo significativi risparmi energetici nell'industria quando questi motori elettrici pilotano pompe o ventilatori che devono erogare per esempio un flusso di aria oppure una portata d'acqua variabili. Ecco, in questi casi gli inverter hanno più o meno la stessa funzione dell'acceleratore di un'automobile. Ma gli inverter sono anche un componente essenziale di quasi ogni impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Cerchiamo allora di capire qualcosa in più con l'aiuto di Claudio Bossi, responsabile del gruppo di ricerca sulle rinnovabili e sulla generazione distribuita dell'ERSE, l'ente Enea per la ricerca sul sistema elettrico. Buonasera Bossi. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora Bossi, intanto ci spieghi un po', ci ricordi che cosa sono, che cosa servono e quindi poi dove vanno a finire questi inverter? Sì, gli inverter sono degli apparati elettronici di diverse tipologie, ne abbiamo, no? Quindi in diversi campi di applicazione li possiamo trovare, come ricordava prima lei, nell'industria, ma ultimamente con lo sviluppo delle fonti rinnovabili ecco che li troviamo anche accoppiati a generatori tipo fonti eoliche oppure i classici moduli fotovoltaici. Ecco che lo scopo, la funzione di questo apparato è quello di convertire un tipo di corrente in un altro tipo. Mm-hmm. Ad esempio, se abbiamo una fonte come quella fotovoltaica, che è una corrente in continua, che è tipica quella come quella delle batterie sostanzialmente, certo, ecco che ci serve per trasformarla in corrente alternata alla frequenza della rete e alla rete elettrica che ci arriva nelle case, cioè i 50 Hz. Certo. Ecco, quindi senza questo apparato non possiamo di fatto generare in rete con ad esempio dei moduli fotovoltaici. Così come con l'eolico è un altro campo di applicazione, è la cogenerazione, cioè quei generatori che possono funzionare con un motore a scoppio, con un motore, esatto, Stirling di vario tipo e producono sia calore che energia elettrica. Il problema c'è anche qua. Esatto, soprattutto nella cosiddetta microcogenerazione, dove abbiamo delle macchine che girano a velocità variabile, quindi a frequenza variabile, è necessario, diciamo, interfacciare questo generatore con un inverter alla rete in modo da garantire una tensione costante e anche la frequenza, diciamo, dei 50 Hz tipici della rete elettrica. E nell'eolico, che è variabile, quindi anche come numero di giri, quindi come frequenza di, certo, rotazione delle pale, e quindi in questo caso è un tipo di inverter un po' diverso rispetto a quello del fotovoltaico. Qui partiamo da una corrente comunque alternata, a una frequenza più bassa rispetto a quella della rete, quindi l'inverter me la trasforma in un'altra corrente alternata alla frequenza di rete. Ecco, tipicamente però quando l'utente finale si trova a dover decidere che inverter compro è perché, come dire, stiamo parlando dell'inverter che è associato all'impianto fotovoltaico. Credo che nella maggior parte degli altri casi venga, sì, dato insieme, o sbaglio? No, certo, nei grossi impianti, nelle grossi aerogeneratori, però il piccolo utente che vuol farsi ad esempio un tetto fotovoltaico, ecco, qui ha la possibilità di scegliere una vasta gamma di prodotti di inverter specializzati proprio per l'accoppiamento al fotovoltaico, e qui di costruttori ce ne sono diversi, anche di ottimi in Italia. Ecco, qua mi interessa approfondire perché appunto ce ne sono diversi, anche di ottimi, e ognuno dice ovviamente il mio è l'inverter migliore. Ma ci sono delle caratteristiche importanti che devono essere presenti in un inverter? Ci può spiegare quali sono in questo caso, oppure se invece fondamentalmente ormai gli inverter li fanno da un po' di tempo e sono tutti uguali? Sì, ormai gli inverter sono abbastanza tutti uguali, cioè perlomeno tutti hanno, diciamo, una funzione particolare che si chiama MPPT, che è la funzione di ricerca del punto di massima potenza. Chiaramente variando la radiazione solare, quindi le condizioni meteorologiche, la produzione di energia elettrica varia, e questo inverter con questa funzione speciale di fatto tende a estrarre sempre la massima potenza dal pannello fotovoltaico. Quindi questa funzione ormai ce l'hanno tutti, l'unica differenza è che se invece di avere dei moduli in tecnologia al silicio, che sono quelli più diffusi attualmente, ho la tecnologia del film sottile, ecco, in questo caso è un po' più difficile individuare il punto di massima potenza, diciamo. Mm-hmm. Allora spesso il costruttore stesso del modulo fotovoltaico consiglia quale modello è presente sul mercato che meglio si adatta al proprio modulo. Perfetto. Quindi anche in questo caso c'è al limite appunto questo supporto del costruttore del modulo fotovoltaico che indica qual è il prodotto migliore. Senta, quindi insomma la conclusione che mi pare se ne possa trarre è che fondamentalmente si sceglie sulla base del prezzo. C'è però qualche magari certificazione che deve essere presente? Sì, ci sono delle certificazioni europee, ad esempio N50081, 50082, che in genere nella brochure di fatto di presentazione del prodotto sono sempre indicate, quindi far riferimento a quello, far riferimento ad esempio anche al grado di protezione, meglio scegliere un inverter con un grado IP65 perché protezione, parliamo di sicurezza in questo caso l'ambiente, quindi condizioni di umidità, pioggia, okay, perché spesso vengono installate all'aperto, e anche le temperature di lavoro tra non so meno 20 e 50 gradi. Quindi comunque presenti diciamo queste certificazioni con le accortezze che lei ha detto, fondamentalmente per il resto la scelta va a finire sul prezzo. A questo proposito le chiedo, sì, qual è il prezzo giusto per un inverter? Ma il prezzo varia con la taglia, però possiamo dire che mediamente un 500 euro a kilowatt è un prezzo giusto. Ok, il prezzo è giusto, possiamo dire così. Sì. Va bene, grazie. Va bene, Claudio Bossi. Grazie a lei, a risentirci. Questo è tutto, domani parleremo di bioetanolo, l'alcol che sostituisce la benzina. Buona serata.